cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you capture, just let it slip. Yo. Poi Trezeguet sulla destra, la palla spistata, Nedved, attenzione, cerca il fondo, pallonetto, poi arriva l'altra, Del Piero, donna! Sembra essere buona ancora per Del Piero. Attenzione Del Piero contro Hierro, una serie di dribbling, lo fa cadere, gol! Alex Del Piero raddoppia. Zambrotta, è buona, è buona. Pallone con il Contasini per Nedved. Nel 2000 si accende sto microfono o no? Sì, si accende sto microfono proprio oggi. Nel 2003 andò così. Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Veronati in regia, erano bambini. Giovanni Capuano qui con me oggi, non tanto o meno? No, però insomma ero più giovane. Eri più giovane. Comunque è andata bene, dai. Aspetta bene. Nel 2003 Juventus Real Madrid, l'ultima volta andò così e poi quella stagione finì. Cos'ha? Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! E comunque fosse stato il punto più alto, comunque sia andata, che piace a morire i milanisti, meno ai juventini, è stato il punto più alto del nostro calcio di club, la finale di Manchester. Però adesso la Juventus fra i tre mostri ha avuto quello che voleva, cioè quello con maggiori problemi, ossia Real Madrid, con cui giocherà in casa il 5, in trasferta il 13. Barcellona-Bayern Monaco mi sembra una partita pazzesca, è andata benissimo a Napoli in Europa League che ha preso il Dnipro. Siviglia-Fiorentina andata il 7, ritorno il 14 maggio in entrambi i casi, si, se lo fa. E sogniamo la Juventus a Berlino e un derby italiano a Varsavia. Claudio Zogliani, buongiorno. Vamos Zeta, vamos, animo, forza, crederci, dai, allegria. Sì, eh? Sì? Dai, vai. Allora, gli facciamo sentire subito, Giovanni, cosa ha detto Thomas Ronsero? Thomas Ronsero, che è il Pellegatti, lo Zuliani del Real Madrid. E che oggi... Cosa ha detto? Secondo me lui ha scritto una pagina di cui potrebbe pentirsi amaramente fra un mesetto. Ah, però, ce lo auguriamo tutti. Però, noi lo facciamo sentire. Rat to Berlin! Venga, vamos. Ahora el orden de campo lo único, ¿no? Ahora con la Juve. No, no, Barça llave. Barça. No, no, digo el orden de campo en el Madrid. No. Claro, va a tener que jugar con la Juve ahora, pero a ver si la ida aquí o la vuelta en Turín. Bueno, lo mismo. A ver, a ver. ¡Bien! La vuelta en el Bernabéu. Y la vuelta en el Bernabéu. Madrid, Juve, en el Bernabéu, la vuelta. ¡Sí! Si chiama Road to Berlin. Capito, Claudio? Sta già facendo, bravo, le valigie. Bravo Thomas, bravo. Vorrei ricordare a Tomassigno, sì, che tutte le volte che li abbiamo pescati, a parte quando come finale 1-0 di Coppa con gol di Mihajlovic in fuorigioco ce l'hanno fatta fuori, o come quando il fantastico Ronaldo... Sì, però non parliamo Ronaldo di arbitri, Giulia, perché sennò... Sai, no, che... no, no, infatti... No, non è la settimana giusta, dai, non è la settimana giusta. Quindi Mihajlovic, lascialo lì. Vai avanti. No, aspetta, è invece la settimana giustissima. Proprio perché se c'è un rigore dubbio col Monaco, ci sono trasmissioni quintalate di giornali, bisognerebbe anche ricordare che la Juventus in Europa ha avuto una finale di Coppa Campioni, anzi due, pure quella col Borussia, condizionata pesantemente da Gerbi, ma fa niente, rimaniamo all'attualità. Sì. Volevo ricordare al signor Tomassigno, sì, che Quando eravamo sfavoriti, il signor Del Piero è uscito con una standing ovation dal suo fantastico stadio. Erano gli anni di Ranieri. E la fantastica cavalcata che portò alla finale, purtroppo persa con il Milan, causa una munizione a Nedved in semifinale con Real Madrid, che è salta alla finale l'anno del pallone d'oro. Tra l'altro li abbiamo spazzolati. Che quando capita che giochiamo contro di loro e non è una finale, in genere passiamo noi da sfavoriti. Io questo glielo ricordo. Poi rimaniamo sfavoriti e usciremo senz'altro, però... Però la Juventus ha preso, la Juventus ha preso quello che si augurava, tu lo sai molto meglio di me, però oggi, stamattina, nell'ambiente. Tra le disgrazie, quella auspicabile era il Real Madrid, che rimane la grandissima squadra, però è evidentemente più in difficoltà rispetto alle altre due. L'ultima cosa che volevo ricordare al signor Tomassigno è che la partita di andata, casualmente, la giochiamo allo stadio nostro il 5 di maggio. Che è la data storica per gli Juventini. Piace molto. Nazionale. No, questo fatto che la Juve gioca in casa la partita d'andata, adesso a parte che è il 5 maggio, secondo me è il vero vantaggio della doppia sfida, cioè che la Juve presumibilmente resterà in partita per 180 minuti, secondo me sarebbe stato peggio il contrario, ma sai, tu puoi anche giocare una partita tranquilla. Io ho in mente ad esempio quello che ha fatto l'Atletico Madrid ha fatto una partita all'andata puntando a non prendere il gol e a giocarsela tutta al Bernabeu, devi renderli più brutti. Io credo di quello che sono, se tu entri in una sfida, Zulia, da sfavorito, e la Juve al di là delle battute è oggettivamente sfavorito, giocare in casa la prima è meglio. No, ma proprio perché sei sfavorito, io mi auguro che la Juventus giochi con la testa libera a questo giro contro la Madrid. Cioè è evidente che le partite col Monaco andate e ritorno sono state due delle partite più brutte della storia della Champions, della Juve. Cioè, visto che rimaniamo quel fantastico 3-1 contro il Real, poi finale persa col Milan, cioè in quell'annata lì la Juve arriva in finale spazzolando in trasferta al Barcellona a casa sua e il Real Madrid con una partita fantastica. Quindi voglio dire, quella deve essere la Juve di Champions. Se sono il Real Madrid e pensi di fare la partita che hai fatto col Monaco, sinceramente, tanto parti sfavorito, loro sono più forti, giocati la partita a patto, Zulia, che non ci raccontiamo che comunque va bene. Cioè la Juve è qui per vincerla la Champions, ma attenzione, non è che la Juve è qui per vincere, cioè, la Juve la vince, che è un altro discorso. No, ma io non sono d'accordo comunque con il mio collega, così lo mettiamo via insieme a Tommaso Ronsero. Non sono d'accordo con il mio collega, secondo me la Juve ha già raggiunto un risultato importante. Claudio, aspetta un attimo che ho il traffico. Arriva anche Pardo al telefono. C'è Gigi da Piacenza che scrive: sono un milanista, questo te lo regalo, sono un milanista che sta guffando e rosicando, ma se la Juve non la vince quest'anno sta altri 12 anni senza vederla. Gigi da Piacenza, non io. Traffico. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Tutti convocati. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. Penetrano il buio, ispirando terrore e superstizione. Questi guerrieri spaventosi sono i gufi, la morte con le ali. Come se non bastasse, Giovanni Capuano. Allora, Claudio Zuliani, in linea con noi è arrivato Pierluigi Pardo. Sappi che qui siamo carichi come le mine, Pardo. Beh, chiaro che siamo carichi, perché Zuliani l'ha già alzata al cielo, hai capito? Noi siamo il partito dell'ottimismo. Ho capito. No, fondiamone. Ti prego, fondiamone un altro, perché quello dell'ottimismo è fallito ai mondiali. La data sua ai mondiali, quindi. Però quello era un ottimismo non basato sul il movimento. Quello che fallo tu, decidilo tu il nome. Ma il partito dell'ottimismo è fallito. Adesso però c'è Zuliani che l'ha già alzata al cielo la Champions League, nel cielo di Berlino. Vogliamo far sentire? Noi non andiamo a Berlino, noi siamo già a Berlino, che idea. Siamo proprio scelti, stiamo aspettando. Spregio alla scaramanzia, immagino che stia toccando in maniera. No, sì, ma devo dirti. Lui è convinto, No, devo dirti che quando in diretta a media, se Pardo se lo ricorderà, con Sacchi in studio, mi hanno chiesto cosa facevamo a Dortmund e io ho detto vinciamo 3-0, non un po' riso tutti, e poi abbiamo vinto 3-0. Sì. Invece su Monaco non mi sono espresso e sono andate malino le partite. Claudio, dammi un fondamento tecnico sulla tua speranza. No, vabbè. Il fondamento tecnico per la Juventus elimina il Real Madrid perché due punti. La Juventus elimina il Real Madrid due punti perché sennò non si chiamerebbe Juventus e quindi non si partecipa, ma si cerca di vincere, anche e soprattutto quando si è sfavoriti. E perché la storia insegna che nei precedenti con Real, ti ripeto, spesso e volentieri da sfavorita, la Juventus è riuscita a passare anche con delle bellissime partite. E perché c'è Tevez che vuole andare via, non si sa se quest'estate o la prossima, lasciando un segno indimenticabile. E perché c'è Buffon che non vuole andare a ritirare la pensione senza avere in bacheca la Champions League, perché lui della finale di campione del mondo con la maglia dell'Italia se ne fa poco senza la Champions League in bacheca. E perché c'è Agnelli che è lì che sta bavando, che la vuole alzare, vuole, che già sta contando i dollari che arrivano da Berlino. E perché Chiellini si ricorda della simulazione di Ronaldo e gliela vuole rendere. Sì. E perché Pogba sta cercando di accelerare per recuperare, perché cosa? Quando torna? È a due giorni dalla partita del ritorno, quindi la vedo un po' difficoltosa. Però. Torna per Berlino. Secondo me, io non so se Pierre è d'accordo, il motivo per cui la Juve ce la può fare è che è o quest'anno o mai più per questo gruppo, per la spina dorsale di questo gruppo, perché la Juve è all'apice di un ciclo, e poi perché quest'anno Carletto Ancelotti ha camminato tante volte sul filo, qualche volta è anche caduto, perché la Liga praticamente l'ha buttata via, in beh, Champions no, aspetta, si è anche aspetta, salvato meno due, cioè, però gioco, c'è stato un momento, un mesetto e mezzo fa, che ce l'aveva in tasca la Liga, era un campionato praticamente vinto, perché poi noi oggi dipingiamo il Barcellona come qualcosa di inarrivabile. Due mesi fa il Barcellona era una polveriera con Luis Enrique contestato, ma infatti, fai tre mesi, sì, io, tre io mesi non fa penso, non penso che la Juve sia favorita, lo dico sinceramente, favorito il Real, ma penso che sia giocabile. Non mi sembra una cosa, certo serve un'impresa e servono due partite clamorose, ma insomma la Juve può fare, è più probabile che passi il Real Madrid, ma la Juve può fare, insomma, cioè, è un pronostico non completamente equilibrato, ma c'è margine, insomma. L'anno scorso la Juve nel girone giocò contro il Real Madrid perché era completamente una situazione molto diversa. La partita a Torino fu una partita equilibratissima, la partita a Madrid più o meno pure, con quell'episodio lì del rigore e con l'episodio poi del cartellino rosso. Quindi chiaramente non fa giurisprudenza la partita. Ma scusa Pier, poi in 10 nel secondo tempo la Juventus tiene il pallino del gioco in mano a Madrid, quindi attenzione. Sì, però le partite del girone sono, non dico delle mezze amichevoli, però soprattutto vabbè, quando c'è una differenza. Ma non ti metto tu col tuo pessimismo cosmico. Dico che la Juve può vincere la Champions, Giulia, che pessimismo cosmico. Io rifiuto in partenza l'idea che siccome le altre sono più ricche allora tu non puoi partecipare, ma di cosa stiamo parlando? La Juve è una mezza outsider, e mi spiego. La Champions non sempre, anzi raramente, ma è successo in questi anni, l'hanno vinta squadre che erano outsider, come ad esempio il Porto di Mourinho. Per me è più o meno praticamente l'Atletico Madrid tolti gli ultimi due minuti, oppure il Chelsea che vince in casa del Bayern, ma quella roba lì, il Chelsea quella Champions League la vinse in maniera incredibile, con delle partite di pura sofferenza contro il Barcellona in semifinale e poi contro il Bayern in finale. Per me la Juve ha di più di quel Chelsea lì. Ma ti posso dire una cosa, Pier? Noi ci dimentichiamo, perché noi abbiamo reso leggenda l'Inter di Mourinho per il triplete, ma l'Inter di Mourinho era una squadra che in Europa si schiantava regolarmente agli ottavi di finale da un po' di stagioni, e poi è arrivato quell'anno e ha vinto, e non era la più forte in partenza. Non lo era, c'era un Barcellona stellare. Ma non è che ti capita sempre l'annata in cui c'è il vulcano islandese, 8 rigori a favore, il Colin fuorigioco al 94esimo. Ti risponderebbe che nemmeno ti capita sempre il Monaco nei quarti di finale, certo, poi andiamo avanti per tutta la vita, perché qui apriamo, buoni. Erano capitati russi nei quarti di finale. No, io trovo che ci sia invece un'analogia fra quell'esperienza di Mourinho e questa Juve, nel senso che ottavi di finale è un'avversaria forte ma non fortissima, Chelsea e Borussia Dortmund, Chelsea forse un pochino più forte, nei quarti di finale un'avversaria morbida, i russi, il CSKA per l'Inter e il Monaco morbido ovviamente per il livello ovviamente della, della competizione, no? E poi adesso perde la grande impresa, insomma, all'Inter. Beh, come, bisogna per forza passare di lì, insomma, Pierluigi, bisogna per forza passare di lì. Posso dire una cosa, insomma, io credo che a ad agosto ci avessero detto, a tutti gli sportivi italiani, tre squadre italiane qualificate nelle semifinali delle coppe, in questo modo, con questa autorevolezza, ma anche senza, gli avremmo reso in faccia. Sì, sì. Io Genta, Zuliani, sì, sì. Capuano, non lo so, forse senz'altro. Gli avremmo reso in faccia, certamente. Sì, se qualcuno mi avesse detto che con 10 euro pranzavo in un ristorante di 100 rischiano di andare a quello di 1000, questa alla faccia di Conte? Questo lo sta dicendo a Conte? No, nel senso che anche Antonio Conte, che è un grandissimo allenatore, non ci ha creduto per niente a questa squadra, no, in Europa, così com'era. Perché questo è vero, detto lui, no? Che questo un po' è vero, questo è vero. Questo è vero. Soprattutto secondo me non ha creduto all'Europa League, che era, non dico in tasca, ma era probabile l'anno scorso, era possibile con la finale a Torino. Però sai, sull'Europa League noi italiani odiamo le amichevoli. Adesso ci hanno messo questo posto per la Champions e improvvisamente tutte le nostre squadre se la sono giocata, fanno turnover in campionato, una cosa bellissima. È una cosa che dovevano fare a prescindere, se anche non ci fosse stato il posto per la Champions, che certamente aiuta, perché poi cambia i budget se riesce a vincerla. Però insomma, Varsavia è lontana, adesso è un po' più vicina, all'inizio dell'anno era lontanissima, e però le squadre italiane quest'anno hanno deciso improvvisamente che questa coppa meritava di essere giocata. Allora, le date, qualcuno mi chiede le date esatte, sono state modificate rispetto al sorteggio originale. La Juventus giocherà in casa il 5 di maggio, ripeto, il 5 di maggio, cioè festa nazionale per i bianconeri, e il ritorno a Madrid il 13, quindi le date, il 13 che porta buono, le date sono queste. Un'ultima cosa, Azzul, la Juventus deve andare a lezione dal Ciolo Simeone? Non so, se vuoi mettere quattro pullman nell'area di rigore, sì, ma a Monaco è abbastanza avanzata. Insomma, vogliamo giocare la partita dal punto di vista tecnico. Ora, o vogliamo fare il posteggio della TM, non so. No, dimmelo tu. No, giochiamo la partita, no? Poi Allegri non è mica un allenatore che vuole 4-3-1-2, il trequartista, le due punte, gioca tecnicamente. Cosa dice sempre lui in conferenza stampa? Abbiamo sbagliato tecnicamente. Certo. E allora giocatela tecnicamente questa partita. Poi ti ripeto, la devi giocare credendoci, perché sei la Juventus, sei tornata ad essere la Juventus. E poi se perdi pazienza, ma non è che a prescindere devi fare le barricate sperando in Dio, se no non è un modo di portare avanti un progetto vincente, anche quando sei sfavorito. Poi ragazzi, ti ripeto, a me pare quasi impossibile un'impresa del genere di arrivare in fondo e vincere la Coppa dei Campioni, però... No, beh, io comunque torno a ripetere, e ne sono profondamente convinto, quello che la Juventus ha guadagnato fin qui sul campo, pullman non pullman, è stato un grande risultato sportivo per questa stagione, e questo non glielo toglie nessuno. Poi esatto, capire dove andrà a finire, andrà a finire il pullman della Juve. C'è un vantaggio clamoroso di cui non stiamo parlando, sì, ed è il campionato, e cioè il Real Madrid si sta giocando qualcosa in patria. La Juve, dai, parliamoci chiaro, lo festeggia e lo vince quando vuole. Quindi queste tre partite questa settimana, il derby, la Fiorentina in casa, la Sampdoria, insomma, vediamo di non fare infortunare tutti i centrocampisti. Guarda, ti dico la formazione di Sampdoria. Allora, in porta gioca Rubinho. Potrebbe giocare Enrique Rubinho perché Solari potrebbe scegliere Rubinho. La Liga Tanti dell'ufficio stampa. Poi difesa a 4 ci mettono, non lo so, giocano i due Elkan. gioca Andrea Agnelli, che gioca il filo sinistro. No, ma scusa, ma Pier, c'era, io ero a Monte Carlo, c'era un sacco di gente in tribuna sotto di me a guardare la partita, c'era Marrone, c'era Pepe, Coman, tutti in campo, tutti in campo. Tra l'altro, a proposito di curiosità, è la terza volta dopo Dortmund e Monaco che la Juve gioca l'andata in casa, tra l'altro che gioca l'andata in casa il martedì e gioca in trasferta il mercoledì, quindi insomma, per gli appassionati di coincidenze, di combinazioni, di numerologia, ma anche dal punto di vista tecnico, insomma, quello che è oggettivamente... Anche televisivo, mercoledì grande esclusiva, non volevo ricordarti. Sì, vabbè, adesso tu guardi questi aspetti... No, questo è abbastanza clamoroso, è la sesta volta su 6 che la Juve so che è trasferta, è chiaro, incredibile. C'è qualcosa di sospetto in tutto questo, voglio dire, mi viene da dire che c'è qualcosa di sospetto in tutto ciò, ma comunque ma non lo dico, mi verrebbe voglia di dirlo, ma non lo dico. Ma dai, Stadini ha volato premium, ciao tessera. Questo lo sappiamo tutti. No, a parte le battute, invece, però voglio dirti che invece il dato, quello tecnico, secondo me, è il fatto che la Juve giocherà per la terza volta il ritorno fuori casa. E sappiamo che insomma spesso, ed è anche vero, insomma, complessivamente giocare il ritorno a casa può essere un vantaggio, però insomma la Juve questo piccolo svantaggio ce l'ha avuto sia col Dortmund che con il Monaco e le ha interpretate bene. Quindi insomma ma sai cosa dico, secondo me è uno svantaggio per provarci teorico. Ma sono d'accordo con quello che dici tu, cioè è già un successo. Poi è ovvio che la squadra e i tifosi della Juve in questo momento avranno voglia, e Allegri avranno voglia di cogliere l'attimo, certo. Anche perché per molti di loro sicuramente può essere l'ultima occasione. L'ulteriore vantaggio che giro a Zuliani prima di salutarlo e da scrivere sull'agendina è che il Real Madrid e Ancelotti hanno una montagna di pressione sulle spalle, la Juventus neanche una badilata di terra sulle spalle. Lo so, però hanno anche le piscine naturali dove allenarsi loro a Madrid. Ho capito, ma non so se bastano. Comunque io tutta questa poca pressione sulla Juve, io devo dire in realtà non la vedo. La Juve non ne ha pressione. La Juve ha la giusta pressione di una semifinale di Champions. L'unica cosa che non deve succedere è la Caporetto. Cioè, l'unica cosa che non deve succedere è perdere male. Perché perdere male. Sì, ragazzi, ma stiamo parlando di una squadra meravigliosa, la Juve di quest'anno. Noi la stiamo presentando come se fosse il Malmo che è arrivato in semifinale di Champions League. No, che caporetto! La Juve se la gioca. Usciamo da questo equivoco, ragazzi. Contestavo l'idea che la Juve avesse tutta questa pressione. La Juve arriva tranquilla, serena, vogliosa di conquistarsi la finale, un passetto alla volta. Io sono d'accordo con Zulle, sono d'accordo con il dottor Genta, cioè secondo me ha già pienamente raggiunto gli obiettivi della stagione e può giocare con la testa libera, con la voglia di divertirsi. Poi è ovvio, l'unica cosa che deve evitare, ma insomma non credo che ci sarà questo rischio, è perdere male, perché perdere molto male darebbe il senso che la distanza rispetto a quelle prime tre squadre è una distanza ancora molto grande, ma io non credo proprio che tecnicamente ci sia questa distanza. Non credo neanch'io, e ti dico salutandovi ragazzi che c'è grande entusiasmo, perché appena è uscito Real Madrid, io ero lì pronto con la tastiera come tutti, i voli da 50 euro per Madrid dopo due secondi non esistevano più, si parte già da quelli da 300 euro in su, tutti esauriti. E tu ci sono anche quelli che hanno sbagliato la data, perché hanno sbagliato, perché all'inizio era stato la data. Ma tu non conosci gli omini che prenotano le trasferte da tastiera, loro prenotano tutte le città possibili con tutte le date possibili, le hanno già prenotate. Allora è fatta, grazie Zul, un abbraccio, grazie ragazzi, buona giornata. Ciao, siamo in clamoroso ritardo sulla borsa, qualcuno ci sta stramaledicendo, anche Paolo da Rovigo e Davide da Milano che sono in linea da mezz'ora, ma dopo il traffico li facciamo parlare. 800 dopo la borsa, 800 24 00 24, numero verde. L'entusiasmo c'è, le speranze ci sono e la fiducia in questa squadra c'è, vi lascio al coro. Tutti a Berlino, allora senza scivolare più. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour dal 18 aprile nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Si ricomincia. Convocati. Dunque, Giovanni Capuano qui con me, Pierluigi Pardo c'è? Sì. No, Pier non c'è. Davide da Milano però sta chiudendo anche lui le valigie per Berlino. 800 24 00 24. Poi voglio parlare anche di Napoli e Fiorentina, Napoli col Nipro e Fiorentina con il Siviglia. E io sogno un derby italiano a Varsavia più di quanto non possa sognare. Questo è un sogno più grande della Juventus a Berlino, secondo me è più probabile, derby italiano a Varsavia. Davide, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo fare una precisazione al vostro primo interlocutore che parlava dei torti subiti dalla Juventus. Si è dimenticato nell'elenco che ha fatto. Non torniamo a Mijatovic, La metà delle Coppe dei Campioni che ha vinto la Juventus le ha vinte con calci di rigore assegnati fuori dall'area di rigore, e l'altra metà, se non ricordo male, ancora di rigore. e che il salto di qualità fatto sì, quest'anno, che non è stato sufficiente. Capita di vincere calci di rigore, capita, non è che vale meno, anche capita. Il Manchester United ha vinto la Juventus, ma anche persa i rigori, calci di rigore. L'abbiamo fatto sentire prima. Ecco. Capita un po' più di rado di vincerle con i calci di rigore tre metri fuori area. Sì, però io eviterei di tornare, perché adesso, ragazzi, stiamo parlando di una notte che andrebbe cancellata, appunto. Il salto di qualità di quest'anno invece è che non è stato sufficiente avere un calcio di rigore fuori area per passare il turno, hanno dovuto rubare anche nella partita di ritorno. E quello che mi ha fatto un po' amareggiare è il fatto che, quando vi ricordate ed esaltate questa grande impresa sportiva, vi dimenticate dell'altra parte che sta dall'altra parte. Visto che noi domenica eravamo a San Siro e ci siamo resi conto di quanto può essere bruciante perdere una partita che non conta assolutamente nulla, perché l'arbitro, diciamo, fa un errore, però quando questi errori sono continuamente ripetuti abbiamo scoperto nella storia che forse qualcosa sotto c'è. Sì. Ricordate anche la parte dei tifosi che hanno subito stiamo dicendo che Moggi telefona, che è tornato, sì, telefona anche a Platini. Se non c'è Moggi c'è qualcuno, se non c'è Moggi c'è qualcun altro. Anche ad Eurolivello, no, ma allora contro Barcellona, Real Madrid hanno fatto, si contro sono Barcellona internazionalizzata, contro superpotenze. Questa è una Champions League falsata nel senso che è già scritta, per cui la Juve la vince, non contano nulla. Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco non contano niente. Tra l'altro potrebbero dire la stessa cosa quelli dell'Atletico, che magari protestano per quel cartellino rosso ad Arda Turan, che di fatto ha poi indirizzato alla fine il derby dell'altra sera. Io non so, io credo che per arrivare avanti, per arrivare in semifinale, in finale di Champions League, per alzarla serva anche un po' di fortuna, e la rubrico sotto questa voce, come l'Inter ha avuto, ti ricorderai, con il Chelsea, no? Adesso non facciamoci nemici tutti gli amici tifosi interisti, però anche nel 2010 quelle due tre chiamate sono girate per il verso giusto, ma funziona anche così. È funzionata così anche al Barcellona contro il Chelsea, il Barcellona di Guardiola. Potremmo scrivere la storia delle Champions anche con questi anche episodi. Anche con i gol all'ultimo minuto, anche con e Moggi non telefonava tempo, per l'Inter, non telefonava tempo per il Barcellona, di dai, Iniesta, di Beck, insomma, abbiamo un sacco di esempi in cui le stelle hanno deciso in un certo modo. Se non volete chiamarle stelle e volete chiamarle schede telefoniche, fate quello che volete. Io mi attengo alle stelle e alla dietrologia così profonda, finisco per non credere. Benedetto Ferrara, da Repubblica, ciao! Sì. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Vuoi anche tu buttarti nel fiume della demagogia, della dietrologia? No, io sto organizzando, guarda, stavo pensando alla paella. Stavi pensando, giustamente. Stavo pensando a Siviglia, che è una bellissima città. Sì, ieri hai raccontato, ho visto anche su Repubblica, vittoria fiorentina difficile, sofferta con la Dinamo Kiev. Io, sai cosa ti dico? Al sogno di un derby italiano, poi fagli scongiuri, tanto per radio non si vedono. Sogno di un derby italiano a Varsavia con l'Europa League in palio. Mentre c'è anche Boris Sollazzo. Allora, Benedetto, vai così, dimmi perché il Napoli è favorito per la vittoria di questa Europa League. Dai. Ma innanzitutto contesto la tua lettura del mio pezzo, che la Fiorentina ha avuto 20 palle gol, quindi è sofferta, nel senso sofferto per come è andata la partita. Lì, sì, poi è arrivato con quel gol buffo dello stop lungo di Gomez, insomma, un gol veramente buffo, però decisivo. Detto questo, la Fiorentina ha meritato ampiamente, il Napoli è sicuramente in tutta questa logica ha i favori di avere un allenatore che, come voi sapete meglio di me, nelle coppe dà il suo meglio, però è il fatto che, a parte che in finale poi bisogna arrivarci, ma la Fiorentina, cioè Siviglia, insomma, ricordiamo che ha vinto tre Europa League negli ultimi 9 anni. Però insomma, sono confronti, la Fiorentina è un confronto difficile, il Napoli è un confronto sulla carta più facile, e anche questo vuol dire, però insomma, una finale a Varsavia, ecco, io a quel punto, no, chiunque, se arrivassero le due italiane come uno può anche sperare, io credo che a quel punto lì, però, insomma, se mi permetti l'ovvietà tipica dell'opinionista radiofonico, si gioca al 50-50. Ecco, 50-50. Un'ovvietà che io beh, sì, dai, ci gioca punto Giocatore, direi di sì, anche se la Fiorentina col Napoli ha sempre sofferto, questo è vero, però bisogna vedere poi in che condizioni si arriva, i giocatori, gli infortunati, io non lo so, intanto dobbiamo dire bravi a due squadre che in Europa sono arrivate lì. Questo è sicuro. Credo che la Fiorentina ha una cosa, un'arma, secondo me, che ha una fame bestiale. È una squadra che in un ciclo di 3 anni di Montella, voi sapete bene il calcio che ha prodotto questa squadra, con qualche, sono molti alti e un po' di bassi, però è una squadra che ha voglia di chiudere questa fase, questi 3 anni, alzando un trofeo importante. Chiaramente ora è lì. Quindi i suoi, diciamo, i padri fondatori di questa squadra, Pizarro, Borca Valero, insomma Gonzalo Rodriguez, diciamo i leader di questa squadra, sono assolutamente, però anche una piccola pecca, spesso inciampa sull'ultimo gradino. Allora Benedetto, stai lì un attimo, c'è Boris Solazzo in linea, a cui ovviamente poi rivolgerò la stessa domanda, cioè perché la Fiorentina è favorita per la vittoria in Europa League dopo il traffico. Palla verso Vargas, bravo Vargas, fino in fondo Vargas, 2-0 Viola, festa Viola, Firenze sogna, Firenze in semifinale di calcio italiano. Forse è tornato. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, qui con me c'è Giovanni Capuano, Boris Sollazzo e Benedetto Ferrara in linea. Boris, ciao. Ciao a tutti. Allora, prima ho interrogato Benedetto Ferrara, ora lo faccio con te. Perché la Fiorentina è favorita e non il Napoli? Ma perché la Fiorentina, intanto, se mai si dovesse arrivare a Varsavia, e la strada è ancora lunga anche geograficamente parlando, si ritroverebbe a giocare contro il Napoli dopo 3 sconfitte, cioè la finale di Coppa Italia e le 2 in campionato. La legge dei grandi numeri si sa ha un suo significato, perché probabilmente avrebbe più rabbia perché una finale con il Napoli l'ha persa, e anche perché noi napoletani, per come si sono comportati i fiorentini in quel tragico 3 maggio, forse troveremo più dolce essere sconfitti dalla Fiorentina piuttosto che dal Siviglia o dal Dnipro in semifinale. E queste sono le ragioni del cuore. Stiamo vedendo un po' di scaramanzia. Dai. Le ragioni della tecnica è che secondo me in una partita secca avere dei giocatori intelligenti e abituati a vincere in mezzo al campo come Pizarro, come Borja Valero, possono essere determinanti rispetto a David Lopez, Hiller, De Guzman, il solito difetto del Napoli. Certo è che la prospettiva di avere una finale tutta italiana è una prospettiva meravigliosa e dà ragione a voi, no? Io sono uno di quelli che ha sempre sostenuto che il calcio italiano sta vivendo un momento difficilissimo. Napoli e Fiorentina sono andati in controtendenza e io me lo auguro, sarebbe bellissimo che ci fosse una cosa del genere, perché a questo punto se lo sono meritati. Diciamo solo una cosa: sono le squadre che meno hanno subito gol e che hanno più dato spettacolo in questa Europa League. Tra l'altro devo riconoscere alla Fiorentina che non è stata neanche aiutata dal sorteggio, perché insomma Roma, Tottenham e Dinamo Kiev sono sicuramente più forti di Rabzonspor, Dinamo Mosca e Wolfsburg effettivamente è stata una grande impresa del Napoli. Vedremo. Io non sono soddisfattissimo, l'ho detto in tempi non sospetti, del sorteggio del Dnipro, perché apparentemente è la squadra più debole dell'otto. Questo mi sembra nei fatti. È esattamente però la squadra che più può mettere in crisi il Napoli, come ha dimostrato anche in campionato, nel senso che è una squadra atleticamente molto in forma, è l'unica squadra delle quattro che si chiude molto in difesa, come ha dimostrato ieri contro il Bruges e anche nella partita d'andata, e questo secondo me creerà grossi problemi al Napoli, come nelle partite con l'Atalanta, con tante altre piccole che arroccandosi in difesa chiudevano le fonti di gioco del Napoli. Quello che dico io è che in questo momento tutti chiediamo al Napoli di arrivare in finale, visto il sorteggio non possiamo fare non possiamo chiederlo con la stessa lo stesso tono di voce alla Fiorentina. Lascio la chiusura a Benedetto Ferrara, tu stai lì a Boris. Assolutamente una sfida come dire elettrizzante. Il Siviglia, come dicevamo, tutti sanno, è una squadra che sull'Europa League si campa da anni e lo fa quasi sempre nel modo migliore. È vero che però, voglio dire, a quel punto lì io credo che aver evitato il Napoli, lo scontro tra italiane in semifinale, sia la cosa migliore per tutti. E la Fiorentina, come diceva giustamente l'amico e il collega, la Fiorentina nei fatti ha eliminato il Tottenham, ha eliminato Roma, Dinamo Kiev, è una squadra che comunque è arrivata qui per dovendo tutte le volte comunque giocarsi una battaglia tosta, e quindi a questo punto si giocherà un'altra battaglia tosta. Però ripeto, la sua forza è in questa fame che ha veramente di riuscire alla fine alzare qualcosa, perché è quello che ribolle nel sangue di tutti. E d'altra parte, almeno questa è una sfida internazionale, è una sfida contro la detentrice, ed è una sfida assolutamente affascinante. E la Fiorentina, vorrei dirlo, questo è anche forse la differenza poi col Napoli, che è una squadra di grandissima qualità, ovviamente spessore tecnico. La Fiorentina su questa strada, che è difficile, sapendo che è una grande scommessa, ma ha scommesso una stagione. Sì. Quindi questo è... Beh sì, però il Napoli, diciamo, Napoli si è un po' perso anche, via da solo. La Fiorentina aveva questo in testa, perché sapeva che questa era la strada probabilmente più esaltante per provare veramente ad arrivare finalmente a qualcosa. La strada è ancora lunga, quindi lo sappiamo, però insomma, sai Benedetto, a me incuriosisce capire quale sarà l'approccio da qui nelle prossime settimane al campionato, perché la Fiorentina non ha ancora sigillato la posizione europea in campionato, e se davvero tutto poi anche a livello di energie nervose, fisiche, fosse puntato a questa doppia sfida con il Siviglia, c'è il rischio magari poi di trovarsi con il nulla in mano. Mi incuriosisce capire quale sarà l'approccio. No, io credo che la squadra che ha pagato ogni tanto paga il prezzo, è successo col Verona in maniera abbastanza eclatante, con un turnover che non stava in piedi evidentemente, però credo che troverà un suo equilibrio in questo finale di stagione, anche perché c'è un calendario, al di là della trasferta in casa della Juventus, tra virgolette abbastanza agevole rispetto anche a alcune concorrenti. Quindi la Fiorentina punterà ovviamente a riconfermarsi in Europa, non può ritrovarsi a fine stagione magari non vincendo l'Europa lì, come può accadere, a mani vuote. Io credo che la gestione dipenderà, purtroppo, sai, l'infortunio di Babacar per esempio si aggiunge un altro problema in attacco. Vediamo Bernardeschi che torna, vediamo Pepito Rossi se riesce a giocare qualche partita da qui alla fine. Difficile. O qualche spezzone importante, e qualche spezzone magari qualcosa può venire fuori. Però io credo che la squadra d'equilibrio lo troverà, e credo che aver conquistato la semifinale ridarà anche molta serenità, e anche ha ritrovato un bel feeling col pubblico, che ieri sera comunque si è esaltato, perché sì, la prova è stata... Non te l'aveva ragione quando ha detto quei fischi col Verona ingenerosi. Grazie Benedetto. Grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao. Io voglio lasciare un ultimo minuto a Boris Sollazzo, che mi deve spiegare perché ieri sera Benitez, quel benedetto uomo, ha fatto giocare Higuain, Martens, Insigne, Hamsik, eccetera eccetera eccetera, una partita già vinta. Ma perché secondo me, da persona intelligente, sa che nulla è scontato. Il primo tempo di ieri ha dimostrato che insomma il Wolfsburg non era la squadra dell'andata, e tante volte ha fatto un turnover troppo esplicito. Su Higuain poi c'è da dire che vuole sempre segnare, vuole sempre giocare, vuole vincere la classifica marcatori dell'Europa League, quindi non lo puoi togliere, cioè non te lo permette lui. Lo si vede quando fai due assist, va a cercare la chiusura del triangolo perché vorrebbe segnare lui. Io mi permetto di dare un consiglio alla Fiorentina: tirare da fuori, perché con quel portiere del Siviglia... Sì, abbiamo visto ieri. Esatto, la Fiorentina deve imparare a tirare da fuori, perché almeno nelle partite col Napoli che ricordo io, il problema della Fiorentina è che vuole andare sempre in porta col pallone. Invece con quel portiere, secondo me, dovrebbe provare, anche perché ce le ha i giocatori. Sì, chi è in grado di concludere ce l'ha. Grazie Boris, un abbraccio. Ci sentiamo strada facendo, come diceva, cantava qualcuno. Giovanni Capuano aspetta. GR, poi torna anche Pardo, state qui. Convocato. Che dire? Arieccici. Tutti convocati. Io chiedo scusa ai miei amici convocati, perché fino adesso non hanno avuto tanto spazio e tanta voce, ma ce l'avranno da ora in poi fino alla chiusura della trasmissione. 800240024, sempre con me Giovanni Capuano. Poi proveremo a capire anche quali sono gli umori a Madrid dopo questo sorteggio che ha accoppiato il Real Madrid alla Juventus, ma anche il Barcellona, il Bayern di Monaco, una sfida pazzesca. Tornato Pierluigi Pardo, rieccoci. Eccolo, grazie. Giuseppe Palermo, Carlo Anconi, i primi due. Giuseppe, vai, buongiorno, vai. Salve gente. Volevo rispondere al primo ascoltatore che in assoluto ha chiamato oggi e che credo che sia stato l'unico. Bene, vorrei suggerirgli soltanto... No, ci sono stati anche degli altri. Ma comunque, cosa aveva detto? Mi rinfreschi, cosa aveva detto Giovanni? credo fosse ecco, quello di Moggi che ha telefonato all'arbitro. Okay, okay, volevo gente, cortesemente, fammi finire. Volevo solo capire secondi. Di cosa stavamo parlando. Esatto, voglio soltanto suggerirgli uno psichiatra ed andare in analisi, perché mi sa che lo trovo, lo sento anzi molto esaurito. Tutto qua. Ciao gente. Ciao. Non credo che necessito risposte, ma comunque gli animi mi sembrano già abbastanza caldi. Ti sei perso tanta roba, Pier, ti sei perso tanta roba. Non so che però che aveva detto, perché era no, aveva periodo, detto che praticamente come dicono i radiocronisti, nel periodo non collegato. Nel periodo non collegato, uno sei stato richiamato e ha detto che era tutto taroccato perché la Juventus aveva beneficiato di indubbi favori arbitrali nel corso dell'intero percorso in Champions League. Non è così, però perlomeno insomma anche Barcellona, Real, Bayern non conta niente a livello politico, volendo stare nella follia, nel campo della follia, sì, perché la Juve abbia avuto episodi arbitrali. Non ti sento, Piero. Come non mi sento? No. Vai e vieni. Ti richiamiamo perché vai e vieni. Carlo Ancona, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per la convocazione. Tre cose molto velocemente. La prima, non so se l'avete già affrontata, però parlate sempre, poi ho sentito anche la telecronaca finale al gol della Fiorentina di Pardo. Il calcio italiano è tornato, forse. Forse bisogna fare una considerazione che al di là della Juve, Napoli e Fiorentina, gli italiani pochi. Quindi prima di parlare del ritorno del calcio italiano, ritorno di squadre che giocano il calcio italiano, perché di italiani pochi, quindi in ottica nazionale siamo messi comunque male. Quindi sì, però, non so se ieri c'era Aquilani. Però possiamo dire una cosa, oggi c'è, credo sul Corriere dello Sport, una bellissima grafica che ti spiega come la Juventus sia la squadra più autoctona delle quattro semifinaliste della Champions League, perché ad esempio soprattutto Real Madrid e in parte anche Barcellona e Bayern Monaco sono squadre in cui ben più della metà dei giocatori, soprattutto dei titolari, non sono né spagnoli né tedeschi, cioè non è solo una questione nostra, è vero, Napoli e Fiorentina ne hanno pochissimi di italiani, se non sbaglio avevamo fatto una statistica, Carlo, le gare d'andata avevano giocato il 7% dei minuti i giocatori italiani tra Napoli e Fiorentina, però questo è comunque il calcio italiano, è la scuola italiana, è tutto quello che noi abbiamo, che non è solo la nazionale, e quindi a tutti piacerebbe vedere squadre composte solo da italiani, però funziona così, cioè se il Real Madrid vince la undecima con una squadra per due terzi di stranieri, secondo te a Madrid si fanno dei problemi? Ma secondo me a Madrid nemmeno si pongono il problema con un allenatore italiano. La decima con un allenatore italiano, no, io per carità, va benissimo ed è ovvio che l'ideale, ma non so neanche dirti se è l'ideale, insomma, comunque che possa essere romantico il pensiero che ci sia qualche calciatore italiano in più nelle nostre squadre. Detto questo, l'Inghilterra ha dominato per anni e il Capello si lamentava che non c'era un giocatore inglese di livello e la nazionale fa ridere, insomma. Io dico che dobbiamo capire che facciamo parte di un mondo che ormai è tutto globale, che ci piaccia o no, ma è così, e quindi la libera che questa sento più di nuovo. Maurizio, buongiorno. Oh, buongiorno a voi. Dica. Io sono un tifoso interista e pregherei gli amici tifosi interista di smetterla di rompere le scatole con il bravo degli arbitri sulla Juve. Ricordiamoci di come abbiamo vinto noi la Coppa dei Campioni l'anno del triplete. Mi ricordo un rigorino a favore del Chelsea e un rigore scandalosamente non assegnato al Barcellona in casa da noi. Quindi, tu però sei un finto interista, di la verità. Sono un finto interista. Finto interista, sì, io tu sei un infiltrato. Cioè, no, questa è la classica telefonata. No, ma hai ragione, in assoluto. Fatemi finire però il discorso. Allo stesso tempo, però, non solo, aggiungo anche che sono uno che sostiene che la Juve abbia vinto con merito sul campo gli scudetti assegnati, quello all'Inter e quello poi non assegnato. Allo stesso tempo, però, ricordiamoci di che cosa è stato condannato il signor Moggi, cioè, se non sbaglio, per l'associazione a delinquere. Cioè, la Juve ha vinto quegli scudetti allestendo le squadre in maniera irregolare. Poi sul campo è ovvio. Comunque mi sei caduto sul finale, perché stavo quasi per dire che aveva la voce di Zuliani. Gli assomigliava moltissimo. Poi però con questo finale su Calciopoli hai smontato la teoria. Un minimo di fondamento Calciopoli ce l'ha, insomma. Sì, ma oggi possiamo anche fare a meno di parlarne. Finisco dicendo, secondo me la Juve non è proprio all'altezza delle altre tre. Forse qualche cosa con Correa se la può giocare, sì, ma ahimè la porta sarà veramente molto chiusa in fase finale, perché a Bayern e Barcellona sono veramente io continuo a pensare che la Juventus deve prendere lezione dal Cholo Simeone per come è riuscito a incartare il Real Madrid per sette partite consecutive. Pierluigi? No, io innanzitutto dico che invece secondo me è un vero grande tifoso interista, perché l'onestà intellettuale di riconoscere quando una volta ti danno un favore arbitrale ti rende secondo me anche più credibile quando poi rivendichi quando invece ci sono gli sfavori. Sicuramente l'Inter, che tante volte nella sua storia aveva protestato per delle cose che non andavano, in quella Champions League è stata secondo me fortunata con gli arbitri, non penso minimamente al complotto, è stata fortunata, così come la Juve è stata fortunata col Monaco, ma sì, però vogliamo mettere nello stesso riquadro anche i gol all'ultimo minuto. Mi ricordo uno di Iniesta, una Champions League che il Manchester United aveva perso e poi l'ha rivinta. Non è che arrivi l'Inter è arrivata a vincere il triplete quell'anno perché era una grandissima squadra, però l'ascoltatore interista, secondo me autenticamente interista, ci ha dato un grande messaggio, cioè non è che se c'è una volta un favore arbitrale per la tua squadra non devi dirlo, non succede niente, lo puoi dire, lo puoi riconoscere. Sicuramente col Barcellona nella partita d'andata qualcosa è andato per il verso giusto, ma meno male per l'Inter, altre volte è successo il contrario, ma fa parte del gioco. Diverso è chiaramente quando c'è una situazione conclamata. Questo è chiaro. Ma poi è chiaro che non si vince la Champions per caso. Quell'Inter lì era una grandissima squadra e se l'è meritata. Non la si vince per caso, però serve sempre, in tornei così serve sempre un po' di fortuna. Poi mettila come vuoi, mettila al gol al 94esimo, mettila un fischio che arriva o non arriva, però una botta ce vo', magari anche due per arrivare. Il mito del Barcellona, tu lo ricordavi, nasce dall'Iniesta, cioè dal gol di Iniesta all'incrocio all'ultimo minuto. In una partita in cui, se non ricordo male, Drogba uscì con una crisi di nervi cercando di aggredire l'arbitro, se ricordo bene la sequenza di Porché di Mourinho quando poi raccontò la storia di quel Barcellona, no? Ma appunto però poi alla fine se arrivi a vincere innanzitutto hai una base molto buona, poi avrei avuto anche un pizzico di fortuna in certe partite chiave, ma questo non toglie nulla a quell'Inter lì, così come non toglie nulla secondo me l'episodio del calcio di rigore alla Juve, che sta facendo una stagione eccezionale, è in semifinale strameritatamente e ha la possibilità di giocare. Senti, chiediamo insieme a Filippo Maria Ricci come l'hanno presa a Madrid? A parte Ronsero, che abbiamo sentito. A parte Thomas Ronsero, che ha già comprato i biglietti per... È già in archivio. È già a Berlino. Filippo, ciao. Ciao. Ma avete sentito Thomas Ronsero? No. Abbiamo sentito le sue dichiarazioni. C'è un video meraviglioso. Certo. Sì, è quello che qua chiamano il periodista de bufanda. La bufanda è la sciarpa, perché lui è tutto. Lui è il giornalista del Madrid. Sì. Ma difatti aveva su una bella maglietta del Real, intanto che assisteva ai sorteggi. Vabbè, Giuliani Blanco. Sì, può essere. È il Giuliano Blanco. Avete nominato grande, il primo della lista dei Porché. Perché di quella partita lì, tra l'altro, se vi ricordate, il gol nasce da un rinvio sbagliato di Estienne, che probabilmente non aveva mai sbagliato un rinvio in vita sua. Non so, se quella palla arriva a metà campo. Abbiamo i sei titoli. Io ero nel tunnel di quella partita e ho dei ricordi abbastanza di Stamford Bridge. mi ricordo vabbè, lo si può dire tanto, siamo in Italia, sì. Il fucking disgrace di Drogba. E mi ricordo anche Hiddink, che non ho mai visto così arrabbiato nella sua vita, dire che era un complotto dell'UEFA, che non voleva due squadre inglesi in finale a Roma. Ballack, chiedeva Filippo. Ti ricordi Ballack anche, che seguiva l'arbitro? Balla che io non l'ho visto, perché io forse stavo dentro, Balla che lo seguiva fuori l'arbitro. No, poi tra l'altro, Balla che lo teneva, Drogba lo menava. A una zona spogliatoi, dagli spogliatoi alla sala conferenza, campo, alla zona interviste, tutto estremamente bello, ma estremamente angusto, sono veramente pochissimi metri quadri, per cui c'era un livello di confusione cosmica e devo dire che insomma fu una pagina, me la ricordo a distanza di anni, me la ricordo molto bene, e probabilmente senza quel l'Iniestasso non posso dire che non avremmo sentito parlare di Guardiola, perché poi alla fine avrebbe vinto comunque magari l'anno dopo, però insomma è l'inizio, no, di tutto. È così, eh? È così, sì, è da lì che tutto comincia. Beh, quindi a Madrid, al di là di Ronsero, come cosa ne pensano? È chiaro che sono favoriti. L'hanno presa bene. E beh, ci mancherebbe, hanno preso comunque, quella che era sulla carta la più abbordabile, no? Esatto, adesso poi bisogna giocarsela, però è chiaro che sono contenti, però appunto Ronsero, avete fatto bene a farlo sentire, perché rispecchia bene un po' la boria madridista, questo fatto di sentirsi già vincitori dell'undecima, dopo che la decima l'hanno aspettata per 10 anni, no? Dopo che per 6 anni sono usciti agli ottavi di finale consecutivamente, però è tutto dimenticato molto in fretta, e adesso loro sì, sentono già Berlino, e poi vediamo, insomma, ecco. Chiaro che Ancelotti non era un zero, ecco, mettiamo le cose come stanno, e magari non lo fa neanche ridere, no, il buon Tomas a Carletto, per cui questo è un conto alla pancia, no, del madridista, però poi a Valdebebas si respira un'altra aria. Senti, ma a Barcellona che cosa pensano? Io stamattina sono rimasto un po' perplesso, perché apro Mundo Deportivo e leggo che chiedono la Juve, vogliono la Juve, sì, poi certo, leggo Sport, c'è scritto Confidential, vogliono tutti il Bayern perché rivogliono lì Guardiola. Allora ho detto, i colleghi lì hanno capito male? No, oppure... secondo me Guardiola è un argomento molto difficile da maneggiare. Cioè, come l'accolgono? Questo gli è, appunto, partiamo da Iniestasso, 14 trofei su 19 tornei disputati, però poi se ne va sempre un po' così. Adesso c'è una dirigenza che con lui non andava d'accordo, e quindi i giornali vicini a questa dirigenza, Lega, il Mondo Deportivo e l'Avanguardia, sono totalmente anti-guardiolisti. Insomma, vediamo come reagisce il Camp Nou al ritorno del profeta. Dovrebbe essere un'ovazione, ovviamente, però non si sa mai, no? Io propendo per l'ovazione, al netto di tutto quello che è successo dopo. Però la campagna stampa non sarà abbastanza sporca per certi aspetti, perché già lo è stato. I giornali a Barcellona sono tutti schierati, e quindi anche quando c'è stata la lite tra Guardiola e Villanova, insomma, sono un po' di stracci brutti. Tant'è vero che Guardiola, se vi ricordate, proprio era in Italia, non in ritiro in Trentino, fece quella conferenza stampa tremenda, durissima. No, nei confronti di certa stampa di Barcellona, sì. Per cui vediamo adesso cosa gli vanno a tirar fuori. Poi no, anch'io penso che il Camp Nou renderà omaggio al vecchio maestro, penso insomma, anch'io. Sarebbe strano il contrario, Sì, soprattutto in quel paese, in quell'ambiente, Filippo. Sì. Una cosa sola, se volete, sul Real Madrid, che mi sono dimenticato prima, occhio al calendario del Madrid. Madrid va a Siviglia sabato, poi va a Torino. Poi c'è la partita in casa col Valencia e il ritorno con la Juve. Non comodo. Mica no, male. Perché Siviglia e Valencia sono quinta e quarta, giocano per la Champions, possono aspirare addirittura al terzo posto, perché vediamo l'Atletico come si mette, e per cui sono ha fatto 2-2 il Barcellona-Siviglia. Il Siviglia non perde in casa da 33 partite, per cui sono gare complesse. Questo secondo me può influire, anche poi Madrid c'ha la rosa, abbiamo visto, abbastanza corta, Vediamo chi ritorna, però insomma non c'è una gran panchina. Ma secondo te Carletto ha ancora in testa la Liga, o questo vantaggio la Juve non ce l'ha, cioè il vantaggio di avere contro un avversario che è ancora distratto da un paio di obiettivi? Sì, non può non pensare alla Liga, sono solo 2 punti, e non so, domani c'è il derby a Barcellona, lo vincerà il Barça, se lo vince sempre, però se per caso così non fosse, è chiaro che se, non so, il Real Madrid va a Siviglia e perde, allora ok, finita, perché noi abbiamo anche un turno infrasettimanale, questa, diciamo, sì, materia mercoledì, anche noi. Ah, ok. Per cui se dovesse perdere la Siviglia dopo mancherebbero troppe partite di distacco, sarebbe troppo grande, e probabilmente potrebbe darla potrebbe darla su nella Liga fino alla sera, a meno che non perda Vigo domenica, capito? Cioè, se non succede qualcosa per strada, se arriva vivo se la porta dietro. Non può non giocare. Grazie, Phil. A voi un abbraccio. Ciao. Pierluigi, secondo te esiste una favorita in questo doppio confronto o no? Tra Bayern e Barça no, non esiste una favorita, perché tutte e due, pur nell'eccellenza, hanno avuto fasi irresistibili e fasi invece di con qualche scricchiolio. Insomma, il Bayern dell'andata col Porto comunque gli errori li ha fatti, è una partita che non è che possiamo cancellare, poi chiaramente ha pesato un ritorno per fortuna di Guardiola. E per quanto riguarda il Barcellona, arriva nel momento migliore della stagione, quindi la tentazione potrebbe essere quella di considerarla favorita, ma quando arrivi a queste sfide sempre from Big Bang, cioè sempre comunque qualcosa di completamente nuovo. Io ho raccontato 2 anni fa quel Bayern-Barcellona che sembrava veramente la fine di un ciclo, con Paolo Villanova in panchina, e questa volta credo che sia equilibrata. Non mi aspetto un'esplosione a favore di uno o dell'altra, penso che sarà veramente il trionfo dell'equilibrio e poi all'ultimo respiro. All'ultimo respiro. Nicola, buongiorno. Salve, buongiorno. Sono un po' arrabbiato, diciamo così, con tutti quei tifosi che peccano di provincialismo, secondo me. Abbiamo 3 squadre tra le migliori 8 d'Europa. Non stiamo sempre a dire che la Juve arriva lì perché è favorita e quant'altro. Ha ragione per Luigi Pardo. Chi arriva lì non ci arriva perché per caso, ci arriva perché è bravo, punto e basta. Io sono tutte le domeniche un tifoso della Juve, sono tutti i mercoledì un tifoso della Juve, ieri sera ero un tifoso del Napoli e un tifoso della Fiorentina. Questa è la verità, basta sempre a cercare il pelo dell'uovo che poi non esiste, perché guardi, queste cose vengono rincinate molte volte. Nicola, io sono per la libertà di tifo, ognuno tifa per quello che vuole, anche per la Dinamo Kiev, il Siviglia o chi vuole lui. Sono d'accordo sul fatto che a me sembra abbastanza pretestuoso fare questi discorsi, quindi la taglierai corta su questi discorsi. Martino Milano, buongiorno. Dica. Io vorrei dire 2 parole sono un tifoso interista, sull'intervento del mio, diciamo, collega interista. Voi dovete far passare un concetto, che quando una società o si commettono degli illeciti a livello sportivo, i 2 scudetti della Juve è giusto che gli siano tolti. Sulla vittoria della Coppa Campioni dell'Inter direi che è vero che abbiamo avuto qualche vantaggio a livello arbitrale, però io mi ricordo anche l'espulsione di Thiago Motta, che non stava nel cielo e in terra, voglio dire che non ci ha mica avvantaggiato. Quindi alla fine si compensano le cose. Sulla Juve sono molto contento che abbia preso Real Madrid, perché magari Ancelotti si vuol togliere qualche sassolino dalle scarpe, visto che cos'è che avevano scritto gli ultras? I maiali non possono allenare, avevano messo fuori uno striscione del genere. Sì, credo sia prescritto anche quello. Secondo me è paleolitico, secondo me inciso sulla pietra. Secondo me Ancelotti non si ricordava neanche, cioè prescritto. Quindi al di là della voce del tifo, di certo c'è, per chiudere con Pierluigi Pardo, che avremo un allenatore italiano in finale di Champions League. E questo ci fa ovviamente piacere, e devo dire che il sorteggio anche dell'Europa League ci dà la possibilità di cullare un sogno che non è semplice, ma non è neanche così peregrino, Piano. E poi sul discorso di prima, ovviamente ognuno ti fa quello che vuole, bufa quanto gli pare durante la partita, perché ancora non si manda e non c'è discussione. Però credo che oggi, svestendo i panni, svestendo la maglietta della propria squadra di club, i tifosi italiani, quelli che realmente amano questo gioco, si siano svegliati felici, perché siamo tornati a essere una potenza. Ora, il punto è, e questo secondo me è il tema che dobbiamo mettere in agenda, far sì che le società italiane, e serve il professor Belinazzo, non si accontentino di questa qua. Servono investimenti forti per migliorare gli stadi, per migliorare le strutture, per non fare una campagna di acquisti fatta male. Cioè, questa impresa di quest'anno deve diventare un modo perché non sia episodica, perché non sia episodica, e quindi insomma, per farla diventare strutturale, ma negli anni 90, sì. il passo è lungo, ma noi adesso abbiamo perso completamente il treno, perché è chiaro che gli altri paesi, l'Inghilterra con un nuovo contratto sui diritti televisivi, e la Spagna con i soldi di Barcellona e Real Madrid sono nettamente avanti. Quindi oggi la distanza colma soltanto purtroppo con così, mi rendo conto che non è romantico, ma bisogna raddoppiare i passati in un modo o nell'altro, per cui ci vuole modernità, perché poi alla fine i tifosi sono contenti, se alla fine si arriva avanti nelle arrivare dall'episodio alla modifica strutturale, mi rendo conto che è un passo lunghissimo. Grazie Pier, sentiamo domenica casa di Giovanni Capuano, dove parleremo anche di ranking, cioè abbiamo... però parleremo di quello che volete, ma magari festeggiamo lo scudetto della Juve, sì. O magari torniamo al 1995, se Tor dovesse vincere il derby che non vince da 20 anni. Facciamo quello che vogliamo, Carlo. Domenica 17-19. Grazie Giovanni, grazie Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, ciao a tutti. Tutti giù dal Trespoli, Gufi! Ah, la Juve a Borussia sarà dura. Ah, non può andare avanti in Champions. Ah, come mai vince il campionato e in Champions non va avanti? Che strage nei boschi dei Gufi! Ciao gente.